Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, io vi stavo aspettando, sono le 11:11, abbiamo Filippa Ureggi in regia la parte tecnica e Luca Rinaldi in assistenza in redazione. Allora, iniziamo la puntata di oggi, 800 24 00 24, se volete chiamare i messaggi al 349 238 6666. Se bella vuoi apparire, un po' devi soffrire, no? Come a dire, non si può avere la botte piena, la moglie ubriaca. Ad esempio, chi come me sta ore e ore sui tacchi sa in fondo che deve mettere in conto qualche dolorino, ma chi come me resiste forse non sa che alla lunga i muscoli del polpaccio si accorciano e il tendine, quello famoso, perde progressivamente la sua capacità di allungarsi. Questa è la causa di quei dolori alle gambe che avvertiamo quando scendiamo dai tacchi, camminiamo con scarpe rasoterra, le ballerine, scarpe da ginnastico o a piedi nudi. Pensate che è tutto provato e misurato da uno studio condotto da un gruppo di ricerca della Manchester Metropolitan University, diretto dal professor Marco Narici, in collaborazione con l'Università di Vienna. E in linea con noi abbiamo proprio il professor Marco Narici. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, grazie per la sua chiamata. Allora, le spiego un po' di che cosa si tratta questa nostra ricerca. L'abbiamo effettivamente misurato un gruppo di signore che hanno portato i tacchi non solo a spill, ma tacchi di un'altezza superiore a 5 centimetri per almeno 2 anni, perché supponevamo che il mantenimento della posizione del piede in accorciamento, perché quando uno mette i tacchi il polpaccio si accorcia, sì, potesse portare alla gran lunga a un accorciamento dei muscoli e a delle modificazioni dei tendini. Sì. Allora abbiamo fatto una serie di misure con la risonanza magnetica nucleare, con gli ultrasuoni, per indagare appunto la struttura, le modificazioni della struttura muscolare. Abbiamo visto effettivamente che le fibre muscolari, ovvero le cellule muscolari, sì, delle signore che portano i tacchi, sono più corte, sono notevolmente più corte, di circa il 13%. Un dato però che non ci aspettavamo era quello che riguardava le modificazioni del tendine. I tendini diventano più rigidi, si stirano molto di meno nelle signore che portano i tacchi. Questi due fattori probabilmente spiegano il fastidio, il dolore che le persone che portano i tacchi provano alla fine della giornata, quando si tolgono i tacchi. Devo sottolineare che questi cambiamenti sono cambiamenti fisiologici, non sono patologici. Devo anche riconoscere che lo scopo della nostra ricerca non era di convincere le signore a smettere di portare i tacchi. I tacchi sono bellissimi e fanno bene allo spirito e a chi li guarda, però se uno porta i tacchi tutti i giorni deve sapere che è meglio alla fine della giornata fare questi esercizi di stretching. Professor Narici, grazie per essere stato con noi. Sì, figuri, è un piacere. Buona giornata. Arrivederci. Quindi per chi al fascino del tacco non vuole rinunciare, non resta che darsi un po' da fare. In linea con noi abbiamo Anna Maria Cova, fisioterapista, fondatrice della Covatec Pilates School. Anna Maria, ciao, bentornata. Buongiorno a tutti. Allora Anna Maria, le strade per salvare muscoli e tendine sono due: alternare le scarpe, no? Certo. E poi fare un po' di stretching, come ci consigliava il nostro professor Marco Narici. Allora io affiderei polpacci e tendini a te. Grazie, soprattutto sono anche donna, perché io sorrido sempre quando sento queste ricerche, perché dico ok, ma nella realtà dei fatti vogliamo mettere un bel tacco 12, magari col plateau, però effettivamente, essendo io un'addetta ai lavori, mi sono inventata una serie di piccole cose, di piccoli esercizi da fare in varie fasi della giornata, proprio per far sì che gli effetti del tacco poi non perdurino, perché come diceva il professore, effettivamente non è una patologia, è una rilevazione che hanno fatto per la quale risulta che perduri un pochino nel tempo questa rigidità del tendine d'Achille. Allora io direi di iniziare al mattino, prima di salire sui tacchi possiamo già fare qualche cosa, Anna Maria. Sì, bisogna calcolare una cosa, sempre comunque spesso, anche per i tempi che abbiamo brevissimi di intervento, non riusciamo a dare una visione globale del corpo, però attaccato a quel benedetto tendine d'Achille c'è tutta una serie di muscoli che soprattutto sotto la pianta del piede sono importanti tanto quanto il polpaccio, e sono quelli che rappresentano la fascia plantare. Cosa succede di notte? Di notte la fascia plantare, che è quella sulla quale poi ci appoggeremo, rilassando tutto il corpo e non dovendosi appoggiare su quella parte, tende un pochino ad accorciarsi, per cui direi che al mattino la prima cosa da sentire, che cos'è? Quella parte della fascia plantare che possiamo sentire appoggiando i piedi giù dal letto e senza alzarsi. Non bisogna alzarsi di colpo dal letto, ma proprio allargare le dita come se fossimo delle paperelle, per cui l'avevamo fatto tempo fa, sentire le dita dei piedi che si aprano, ricordare i tre punti d'appoggio che sono rappresentati da un punto sotto l'alluce, un punto sotto il quinto dito e un punto sotto il tallone, immaginare di stirare queste linee. E questa è la prima cosa da fare prima di alzarsi in stazione eretta, perché la fascia plantare sarà quella che poi determinerà anche un buon appoggio e quindi una buona tenuta di tutto il resto della gamba. Quindi abbiamo bisogno di darle un po' di tempo per risvegliarsi bene, poi per portarci in giro e sorreggerci per tutta la giornata. Però nel corso del, tanto che siamo in ufficio o appena possiamo togliere le scarpe senza che nessuno ci veda, possiamo in qualche modo fare un esercizietto che distenda questo polpaccio, Anna Maria? Certo. Allora, questo è quello che do regolarmente a tutti, uomini e donne, perché adesso non che l'uomo porti il tacco, però la scarpa costringe il piede sempre comunque a un qualche cosa che non è naturale, per cui vale anche per gli uomini, quindi tutti gli ascoltatori sono interessati da questo esercizio. Circonduzione della caviglia, il fatto di disegnare con prima una caviglia e poi l'altra, perché è un po' difficilotto alzare tutte e due le gambe e farle insieme, porta anche a un miglioramento della circolazione sanguigna, per cui facciamo due piccioni con una fava. Sì. Senti, e tornando a casa la sera, quando avvertiamo, quando ci liberiamo dalle scarpe e quindi avvertiamo i dolorini di cui ha parlato il professor Narici, li proviamo tutti, lo sappiamo, che cosa possiamo fare per così dare un po' di relax ai nostri piedi, al nostro tendine, al nostro polpaccio? Allora, a questo punto, nell'intimità della nostra casa, possiamo lanciare una scarpa da una parte, una scarpa dall'altra, cercare una parete, appoggiarci con le due braccia, proprio la fronte appoggiata alle due braccia, perché stendere le braccia a volte ci sono dei problemi alle spalle, vedo che non tutti lo fanno facilmente, sì. Per cui appoggio le due braccia alla parete, sì. La fronte appoggiata al polso che sarà appoggiato sulla parete, porto indietro solo una gamba rimane piegata davanti, l'altra la stendo dietro e mentre ho la gamba distesa, per sentire bene che il tendine si tiri, devo contrarre il gluteo, sì. Allungare la schiena come se volessi spingere via il muro e la cosa fondamentale, se no non si sente granché, è spingere verso terra il tallone. In quel modo stiriamo una parte del polpaccio che è rappresentata dai gemelli. Sì. Poi mentre sto tirando così i gemelli, piego il ginocchio sempre della gamba tesa dietro e continuo a spingere in giù il tallone. Facendo così vado a tirare sempre attaccato al tendine d'Achille, c'è il soleo, sotto c'è il soleo e sopra ci sono i gemelli. E sto tirando bene il polpaccio. Stendo la gamba e cambio la gamba. L'importante è ricordare che bisogna rimanere in quella posizione per almeno 20 secondi. Sì, che poi passano in fretta, però allunghiamo. Sì. Anna Maria, grazie, proveremo. Grazie a voi. E grazie a te. Ma se chi sta sui tacchi rischia, non va meno bene a chi sui tacchi non sale mai, così credo, come Beckham, anche lui tradito dal tendine d'Achille. Mi sono fatto male giocando, ho controllato il pallone, ho fatto un passo indietro mentre facevo una torsione e così il mio tendine d'Achille si è rotto. Ho sentito il tendine avvolgersi sopra il polpaccio. Nel corso dell'operazione infatti mi hanno aperto sopra il polpaccio e mi hanno letteralmente srotolato il tendine verso il basso per poi riattaccarlo. E qua in studio abbiamo il dottor Stefano Respizzi, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Ma dottor Respizzi, Buongiorno. Come mai questo tendine? Poi a sentire la descrizione di Beckham, è vero, a me mi si è un po' attorcigliato il tendine. Assolutamente. La descrizione di Beckham comunque è perfetta, nel senso che è proprio quello che ci dicono tutti i pazienti. La rottura del tendine d'Achille in persone giovani, perché Beckham ha 35 anni, diciamo che l'età critica è tra i 35 e i 45, così tutti i maschietti che giocano a calcetto si mettono comodi, è proprio questa qua, o riferiscono di aver preso un calcio, sì, che non è vero, oppure riferiscono un'improvvisa retrazione non dolorosa del tendine che scompare dietro nella, dove dovrebbe essere, e quindi è proprio un cedimento strutturale del tendine. È una situazione abbastanza frequente, nei pronto soccorsi milanesi, appunto dopo il calcetto ce ne sono abbastanza di questi pazienti, e ha questa caratteristica di non essere dolorosa al momento perché il tendine è poco innervato e quindi dà poco male, e però è molto invalidante evidentemente, perché uno improvvisamente ha il piede che cade in avanti, che sì, svenuto. Svenuto e si è staccato il tendine. E questa curiosa definizione che dicono ma chi è che mi ha dato un calcio? E invece dietro non c'è nessuno, e quindi questa è una sensazione abbastanza curiosa che dicono spesso i pazienti. In questo caso stiamo parlando però di tendiniti da quella che noi chiamiamo da overuse, cioè da sovraccarico, tendinite dello sport. Sì. Persone che per tanti anni, tipo Beckham appunto, fanno attività sportiva e che quindi sostanzialmente nel tempo usurano il tendine. Il tendine è molto resistente, ma comincia ad avere all'interno delle zone più deboli meccanicamente, e all'improvviso cede di schianto. Non ha non dà dei segnali di solito, magari uno può avere un po' di dolore, ma un atleta di questo livello gioca senza nessuna difficoltà. E quindi pian pianino cede e poi improvvisamente si lascia andare. Allora io consiglierei ai praticanti, perché Beckham poi dopo naturalmente sa come gestirsi, di provare a immaginare i propri tendini, cioè di provare a sentirli. Sì. Il tendine è una struttura che non si fa sentire, noi sentiamo il cuore, sentiamo i muscoli, ma il tendine è zitto, è muto. Almeno lui, non ci dà segnali. Però c'è una facile classificazione del dolore, sì, che noi possiamo tenere presente. Il dolore al tendine viene dopo aver fatto la partita di calcetto con gli amici. Sì. È già un campanello d'allarme, è il livello più basso di sofferenza del tendine. Però il mattino dopo ti alzi e non hai più niente. Il dolore viene durante la partita, ti rimane alla sera e poi il mattino dopo se ne va. Terzo livello, il dolore ce l'hai sempre, anche quando sei in ufficio. Il terzo livello è pericoloso, il rischio di rottura lì è importante. E quindi possiamo tranquillamente, i nostri ascoltatori possono tranquillamente provare a sentire questa sensazione. Se hanno dolore tutto il giorno, anche in ufficio, non soltanto durante la partitella con gli amici, direi che è il caso di farsi vedere, insomma, di approfondire un attimo dal punto di vista diagnostico. E intanto, come sempre, potete chiamarci 800 24 00 24, scriverci 349 238 6666, abbiamo il nostro profilo Facebook, la mail è essere benessere@radio24.it. Oggi parleremo di tendine d'Achille, ma non solo, di tendini in generale. Andiamo a conoscerli più da vicino. I tendini sono strutture anatomiche simili a dei cordoni interposte tra il muscolo e l'osso. Sono costituiti prevalentemente da fasci di fibre collagene, fittamente stipati tra loro e orientati tutti nella direzione della trazione. I tendini non sono tutti uguali, variano in lunghezza e spessore, in relazione al tipo di muscolo a cui sono ancorati e al lavoro che devono sopportare. Anche se la loro sopportazione ha un limite, si allungano ma sino a un certo punto, perché sono elastici ma non troppo, e per questo non possono sopportare un allungamento che superi il 5% della loro lunghezza. Sulla trazione vanno forte, reggono oltre 500 kg per centimetro quadrato. Per questo motivo due delle patologie più frequenti a carico dei tendini sono lo strappo tendineo e il distaccamento della porzione ossea collegata. Dottor Respizzi, noi ci siamo rivolti agli sportivi. Abbiamo iniziato con le donne con i tacchi. Non sono obbligatori, ma molte donne li portano. Abbiamo sentito Beckham e quindi abbiamo parlato dello sportivo in generale e ci siamo rivolti anche a quelli amatoriali. Ma non sono solamente le attività sportive o i tacchi a creare qualche problema al nostro tendine. Penso anche gli anni, no? Assolutamente, beh, ovviamente i tendini invecchiano, come invecchia tutto il resto della nostra struttura. Però c'è una cosa curiosa che si sta individuando in questo periodo: una correlazione tra i problemi di tendini e altre patologie di tipo immunitario. Noi ecco, sappiamo questo che mi sembra molto interessante. Il sistema immunitario sappiamo che è ancora una realtà molto magmatica, dove si mette dentro un po' di tutto anche quando non sappiamo bene cosa dire. Si è trovata una correlazione di problemi tendinei, né da sport né da tacco, per fare un esempio, in persone ad esempio che hanno una tiroidite, in persone che hanno un cheratocono, in persone che hanno problemi di tipo metabolico, diabetici piuttosto che queste cose qua, gottosi, e non si capisce ancora bene come c'è. È chiaro che c'è perché compare, quindi lo stiamo rilevando, diciamo, ex post invece che ex ante, ma evidentemente è qualcosa che ci deve essere una correlazione. Ci sono in corso studi interessanti anche da noi, ad esempio in Humanitas, su questo tema. Stiamo provando a mettere insieme gli ortopedici che li trattano con i ricercatori immunologi che cercano di capire nel siero di queste persone quali caratteristiche ci sono che ci possono far capire che ci sia una sofferenza immunitaria anche del tendine. Quindi si apre un mondo di ricerca e di collaborazione molto interessante, perché che uno che abbia la tiroidite, abbia un problema a un tendine, fino a qualche tempo fa non si pensava nulla. Proprio. E quindi invece sono persone che possono avere poi una grave disabilità se il tendine si rompe, evidentemente. Allora affidateci i vostri tendini, 800 24 00 24, noi andiamo a sentire i mercati, il meteo e poi di nuovo insieme. Siamo di nuovo insieme, oggi parliamo di tendini. Devo dire che molti dei vostri interventi SMS mi chiedono di occuparmi nello specifico del tendine d'Achille, il tendine più famoso e quello che forse più degli altri è soggetto ad avere problemi, dottor Respizzi. Ma io vorrei fare un passo indietro e cercare di aiutare anche i nostri ascoltatori a capire se il dolore che avvertono è un dolore muscolare o tendineo. Mm-hmm. Ce la facciamo? Assolutamente sì, c'è una grande differenza. Come dicevo prima, il tendine di solito è silente e quindi non dice mai niente. Il muscolo invece ci dà un sacco di segnali. Noi lo sentiamo che si contrae, sentiamo il dolore dopo la partita, sentiamo i crampi, sentiamo un sacco di segnali completamente diversi. E soprattutto la localizzazione. Se io penso ad esempio al tendine d'Achille, il dolore del tendine è quando finisce il muscolo, se io mi tocco dietro, a un certo punto i muscoli del polpaccio finiscono e c'è un cordone, si sente un cordone molto rigido, molto duro. Quello lì è il tendine d'Achille. Se io ho male mentre schiaccio questo cordoncino, un fastidio importante, in questo caso significa che c'è una sofferenza del tendine d'Achille. Se io schiaccio sopra dove ci sono i muscoli, invece sento il dolore muscolare eventualmente. Abbiamo anche altri tendini, naturalmente. Ogni muscolo ha il suo tendine. Perché il tendine è il trasduttore della forza che riesce a produrre il muscolo. Ad esempio, molte persone avvertono dei dolori alle spalle. Sì. Come fanno a capire che non è una cattiva posizione che hanno assunto durante la notte, ma invece è un problema dei tendini? È molto più difficile, perché in questo caso i tendini sono dentro nell'articolazione e noi non li possiamo toccare. Ecco. Quindi in quel caso ci si arriva soltanto facendo un'ecografia per capire se c'è una sofferenza dei tendini. Anche in questo caso però bisogna dire una cosa statistica. Sì. Nella maggior parte delle persone over 60 c'è una lesione dei tendini della spalla. Che spesso non dà segno di sé. Quindi meglio non saperlo e non fare niente. Però, ancora una volta, diciamo che anche i tendini hanno le loro rughe col passare del tempo. Ecco, questo può essere un po' una similitudine, diciamo. Il tendine invecchia, evidentemente. Beh, meno male, no? Sì, per forza. Ma poi, essendo una struttura poco irrorata di sangue, più facilmente va incontro a processi degenerativi di altri tessuti. Quando si lamenta possiamo occuparcene, ma io mi occuperei prima degli ascoltatori. Abbiamo Gabriella da Udine, buongiorno, 800 24 0024. Gabriella. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, io attualmente soffro da 15 giorni circa di un'infiammazione al tendine d'Achille, però è un problema che si ripresenta periodicamente da ormai quasi 10 anni. In passato davo la colpa all'attività fisica, facevo jogging in maniera costante durante la settimana. Questa infiammazione che si ripresentava mi ha spinta ad abbandonare. Sì. E per però ora da diciamo 5 anni a questa parte il problema si ripresenta comunque e non ho nessuna soluzione, il medico non mi ha dato nessuna soluzione definitiva se non quella di prendere antinfiammatori per via orale e quelli per via locale, quindi volevo sapere se possibile se ci sono degli esami che poi possono far risolvere la situazione, nel senso possono farmi capire meglio qual è la problematica che scatena questa infiammazione e poterla risolvere. Allora, occupandoci di Gabriella, noi facciamo veramente il nostro, chiudiamo un po' il nostro percorso, quindi i segnali, gli esami da fare, soprattutto anche la persona e lo specialista a cui rivolgersi, perché ne parliamo con il medico di base, e poi ci sono diverse figure professionali, dottor Respizzi. Ecco, una devo farle una domanda, Gabriella, ma adesso lei non sta facendo nessun tipo di attività? È sedentaria? No, proprio sedentaria, esatto. Sedentaria, cioè, è impossibile. Ovviamente si muove, farà lavoro. Quanti anni ha, Nicola? No, però insomma, Gabriella? Diciamo il normale movimento quotidiano. Sì. Quanti anni ha Gabriella? 37. Usa i tacchi? Raramente. Dica la verità, Gabriella. Raramente. Quando ci vuole, diciamo quando ci vuole. Quando ci vuole, ci vuole. Allora, bene. Dottor Respizzi. Allora, quello che lei sta descrivendo mi sembra proprio uno di quei quadri di cui parlavo prima. Sono quelle tendinite che non hanno una causa apparente e che quindi lasciano perplessi, come in effetti lei esprime con questa sua telefonata. Non si è ancora capito perché ce l'ha. Nel suo caso io direi che si tratta di fare un'indagine più approfondita dal punto di vista diagnostico, quindi rivolgersi a una persona esperta, e nel caso specifico dal punto di vista diagnostico ci vuole qualcuno che sia bravo a fare le ecografie dei tendini, perché spesso un'ecografia è più che sufficiente per capire la condizione del tendine, confrontando anche l'altro tendine, perché spesso, ahimè, ci sono delle situazioni bilaterali che magari si sentono da una parte sola ma che ci sono anche dall'altra parte. Quindi il primo passaggio è sicuramente questo. Se si escludono delle patologie del tendine di tipo non sportivo, quindi da sovraccarico, ma di altra origine, a quel punto poi ci si può affidare a persone esperte, che dovrebbe essere un medico dello sport, piuttosto che un fisiatra, piuttosto che un ortopedico che si occupa di questo. O un posturologo. Aspetti. Oppure, poi, da fatta diagnosi, ci sono delle attività che sono sicuramente da fare di tipo riabilitativo. Allora, riabilitativo al fine di conservare il tendine, o fargli ritrovare una nuova giovinezza. Allora, i tendini si rigenerano, no? Ecco, ovviamente non è che possiamo mettergli il botox, naturalmente, perché non serve, ma si possono fare delle attività riabilitative che favoriscono una rigenerazione tendinea e quindi una sua guarigione. Allora, in questo caso, ad esempio, affidarsi a una persona esperta, un posturologo, un fisioterapista, persone che sono in grado di insegnare esercizi, come diceva prima la cova, in allungamento del tendine, possono stimolare la rigenerazione del tendine. Però, tornando alla bomba, bisogna capire perché lei ce l'ha questo dolore, perché se non fa attività, è giovane e non ha delle sollecitazioni particolari, è interessante anche andare a studiare il quadro endocrino e quindi parlare un attimo col suo medico per verificare se gli ormoni tiroidei sono a posto, insomma quello che raccontavamo un attimo prima dal versante immunitario, diciamo così. Dottor Respizzi, onde d'urto, terapie fisiche, quali sono quelle che funzionano di più? E ogni tendine ha la sua terapia, cioè ad esempio per quelli delle spalle, il tendine rotuleo, il tendine d'Achille, oppure si parte dalla condizione del tendine, tendini stressati, sfilacciati, che hanno, insomma, non stanno bene e richiedono degli interventi di un tipo piuttosto che di un altro? I tendini sono sostanzialmente uguali in tutto il corpo. È la causa quella che ci deve guidare. Allora, se si tratta di una patologia di tipo da sovraccarico, tipo sportiva, le onde d'urto sono fantastiche, sono probabilmente la terapia più importante in questo momento, più certa dal punto di vista anche dell'evidenza scientifica che funzionino. Però sono un po' dolorose, no? Dica la verità. Sì, mi faccio un esempio di dolore, da 0 a 10 che cosa sento? 2-3, una martellatina continua per 1500 volte, quindi non è sto granché. Però fanno bene. Sì. E soprattutto se ne fanno 2 o 3, quindi è una cosa più che tollerabile. L'onda d'urto qual è il vantaggio? Che non ha solo la funzione di agire sullo stato infiammatorio, ma ha proprio dimostrato ormai anche questo scientificamente un'azione di rigenerazione del tendine. Quindi induce la riproduzione di un tendine nuovo, più sano. E quindi nelle persone che hanno questi problemi sicuramente la terapia è più indicata. Le altre terapie fisiche, laser terapia piuttosto che ipertermia eccetera, hanno più una funzione invece di tipo sintomatico, quindi tolgono sintomo ma difficilmente rigenerano i tessuti. Andrea dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma cosa succede, Andrea? Allora, io ho 36 anni. Sì, che questa è già una buona notizia. Abbastanza. Beato lei. E invece il suo tendine, quanti ne ha, secondo lei? Il mio tendine, praticamente, io ho sempre giocato a calcio. Non lo dica così, come con un senso di colpa, fatto bene. Beckham ne ha 35, quindi insomma. Siamo lì. Vabbè. Praticamente ho sempre giocato con lo spessore, perché ho sempre sofferto di tendinite. Sì. Solo che vabbè, adesso non gioco più a livello agonistico, ma gioco a calcetto con gli amici. E mi sono accorto a luglio, dopo una fitta, sì, che praticamente il dolore non è più come diceva il dottore prima, schiacciando proprio la cordicina del tendine, sì, ma si è spostato più sotto, sotto il tallone o di fianco al tallone. È peggiorato, dottor Respizzi, Andrea? Quando il dolore si muove, cammina, vuol dire che la cosa si fa seria? Oppure... Vuol dire che si stanno coinvolgendo altre strutture. Nel caso specifico, quello che dice l'ascoltatore, si tratta della fascia plantare. Prima la cova parlava della fascia muscolare plantare, questa invece, sì, è la fascia tendinea. Sì. È una specie di arco che c'è sotto il piede, che noi possiamo sentire sotto il piede. Perché non ha il piede piatto. Perché non ha il piede piatto, brava. E che è come una struttura tensile, una tensostruttura che tiene sulle ossa del piede. Se il dolore è passato sotto, è migrato sotto il tallone e lo sente verso la fine del tallone, lì vuol dire che c'è un'infiammazione, c'è anche una fascite plantare, quindi ha fatto bis, che direi che non mi sembra male come idea. E quindi bisogna prima valutare questo piede. Onde d'urto anche a lui. No, attenzione, perché potrebbe essere che l'ascoltatore abbia il piede piatto o il piede cavo, che abbia un'alterazione dell'appoggio. Ci mandi una foto del suo piede. Che così... Bisogna approfondire un attimo il tema con un esperto di medicina dello sport, secondo me, e poi attuare delle azioni preventive, perché giustamente lei è la stessa età di Beckham. Beckham evidentemente ha un conto in banca leggermente diverso, immagino. Questo non possiamo dire. Però glielo auguro al signore, sì, qui presente, ma evidentemente i tendini sono uguali, quello di Beckham e quello di un signore che saranno gioca a calcio. Saranno assicurati in modo diverso. Penso di sì. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, perché tra poco passeremo un po' le mani al chirurgo quando il tendine proprio non ce la fa, si è tentato di tutto e forse si deve entrare in sala operatoria, ed entreremo anche noi. A tra poco. Tendini, se la terapia conservativa fallisce o se il tendine parte, si deve ricorrere all'intervento. Ha lasciato la clinica Humanitas, dove è stato sottoposto ad un'operazione al tendine della mano sinistra, Silvio Berlusconi. Il premier sta bene e dovrà rispettare una settimana di riposo per recuperare dall'intervento. In linea con noi abbiamo il dottor Alberto Lazzerini, il chirurgo che ha operato il premier, lavora presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dove ha organizzato il servizio di chirurgia della mano. Dottore, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, non guarda in faccia nessuno questo tendine, anche i grandi possono avere problemi, no? Anche i VIP, i politici, il premier, come mai? Anche i grandi in tutti i sensi, sia... da questo punto di vista che dal punto di vista anagrafico, perché le patologie dei tendini colpiscono praticamente tutte le età. Ma dottor Lazzerini, il premier deve fare un po' di riabilitazione? È stato messo un po' a KO da questo tendine oppure... Ma guardi, nel caso specifico si trattava di una patologia non grave, per cui molto rapidamente i pazienti che come lui hanno subito questo intervento riprendono una vita normale. Sicuramente un po' di riabilitazione la deve fare, la sta facendo, come tutti. Tutti i pazienti che subiscono degli interventi che coinvolgono i tendini devono fare della riabilitazione, certo. Ma dottore, che cosa significa sistemare chirurgicamente un tendine? Quali sono i tendini più impegnativi per un chirurgo? Ma guardi, i tendini sono impegnativi tutti allo stesso modo. Non è il tendine che è impegnativo, più che altro è il tipo di lesione e la sede eventualmente che può essere più o meno impegnativa. Ad esempio, nelle lesioni traumatiche, in alcune regioni della mano, all'interno delle dita, gli spazi sono molto ristretti, diventa difficile fare delle riparazioni adeguate, diventa difficile ridare al tendine uno scorrimento adeguato. Nelle patologie elettive È sempre un problema di scorrimento, bisogna sempre risolvere dei problemi conflittuali tra il tendine e le strutture che gli stanno intorno. Il tendine noi possiamo immaginarcelo un po' come un filo elettrico, con una guaina e un'anima? Il tendine ha una guaina e un'anima, ma più che come un filo elettrico dobbiamo immaginarcelo come i fili dei freni della bicicletta. Ah. Servono per trasmettere il movimento da un motore, che è il muscolo in questo caso, all'oggetto di questo movimento, che è un segmento osseo, come ad esempio un dito, una falange di un dito. Dottore, di solito si prova, ne abbiamo parlato col dottor Respizzi, con trattamenti di riabilitazione di tipo conservativo e poi come ultima spiaggia ci si affida al chirurgo. Questo è l'iter corretto oppure per alcune situazioni converrebbe non aspettare troppo e arrivare senza inutili tentativi all'operazione? Nuovamente bisogna sempre distinguere da caso a caso, diciamo nelle patologie dei tendini, come appunto quello che è capitato al nostro presidente. Che io mi scusi, non ho ancora capito che cosa gli sia capitato, perché le notizie sono state davvero diverse, sì, tunnel perché... carpale. Alberto, viola la privacy. Dai. Che cosa ha avuto? Come aveva un problema alle dita? Aveva un quello che ha avuto è stato detto e scritto su tutti i giornali, aveva una sindrome del tunnel carpale, che è una compressione di un nervo, e aveva una tenosinovite, cioè aveva una compressione di due tendini. Tutto il resto è basato su affermazioni che sono state fatte in precedenza da altri medici che credo non abbiano neanche visitato, così sulla base di supposizione. Tendinite di Kervin non l'aveva, era un'altra cosa quella. Ecco perché si è un po' favoleggiato, no, dottor Respizzi? Tanto quanto si favoleggia sempre sui VIP, si pensa sempre delle cose strane, invece sono umani e quindi evidentemente e anche a loro tocca, a loro, no, capita. Dottor Lazzarini, ed è avere sotto i ferri un premier, come funziona? Dal punto di vista tecnico funziona uguale. Esattamente come per tutte le altre persone, diciamo che c'è un po' di organizzazione un po' più complicata, ecco, per motivi di sicurezza, come puoi immaginare. Senta, ma è vero che lui era simpatico, faceva anche, raccontava barzellette anche in sala operatoria, questo vuol dire che per interventi di questo tipo almeno non ci addormentate? Noi cerchiamo sempre di mantenere l'ambiente della sala operatoria un po' più confortevole e rilassante possibile per il paziente. Nel caso specifico noi stavamo facendo il nostro lavoro come al solito e lui è stato un buon paziente. Senta, tra l'altro è vero che in sala operatoria vi raccontate delle barzellette terribili? Perché si raccontano anche di chirurghi che per un po' così tenere alta il morale, insomma, si raccontano un po' di barzellette. Ma io tornerei, adesso chiudo questa parentesi, per sapere se, dottor Lazzarini, la chirurgia dei tendini è cambiata, immagino, e se la tecnologia e la ricerca hanno portato qualche cosa di nuovo. Adesso un tendine si ripara, ma si può anche sostituire? Sì, esistono protesi tendine, l'uso è molto limitato, non ci sono ancora risultati totalmente convincenti, però come sempre sa, la ricerca scientifica procede sempre allo stesso modo, no? Bisogna battere tante strade e molte di queste strade poi finiscono nel nulla e qualcuna invece porta avanti, ma se non vengono battute non possiamo sapere se finiscono nel nulla o se ci portano da qualche parte. Però la tecnologia lavora anche per i tendini, soprattutto per quanto riguarda le tecniche e i materiali di sutura, che sono sempre più compatibili, sempre più resistenti a fronte di dimensioni sempre più modeste. Alberto, posso farti una domanda io? Faccio vedi che ormai è diventato, si è carbonizzato. Sono carbonizzato. Si parla tanto dei fattori di crescita, si legge tantissimo sui giornali, anche di divulgazione. Tu cosa ne pensi del trattamento dei problemi tendinei o delle lesioni tendinee addirittura con i fattori di crescita? Perché c'è molta confusione, secondo me, sul tema. Ma sai, noi abbiamo anche una sperimentazione che è in corso di pubblicazione, fatta proprio da noi, dal nostro gruppo qui in Humanitas, proprio su questo, con i fattori di crescita, il tendine trae grande giovamento dai fattori di crescita. Noi l'abbiamo sperimentato sulle lesioni traumatiche, con dei risultati sorprendenti. È questo un altro settore aperto. Sì, tutto però tanto studiare. Che parliamo di fattori di crescita, diamo una definizione, una spiegazione per chi li ha sentiti solo nominare, perché tante volte si creano, no, delle idee strane proprio perché si parla. Dottor Lazzarini, ce le descrive, che cosa sono questi fattori di crescita? fattori di crescita sono delle sostanze che stimolano la crescita di tutti i tessuti, la rigenerazione dei tessuti che noi abbiamo nel nostro corpo, li abbiamo nel sangue, e quello che noi facciamo è estrarli da un campione di sangue dello stesso paziente e concentrarli e applicarli in quantità estremamente concentrata dove servono, in maniera da amplificare la loro azione. È una cosa molto semplice, totalmente biologica, non immettiamo nulla di estraneo, usiamo gli stessi elementi che già c'erano, ci limitiamo a concentrarli dove servono. Dottor Lazzarini, io la ringrazio per essere stato con noi, la lascio alla sua sala operatoria, la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a lei. Ciao Alberto. Ciao. E io saluterei anche il dottor Respizzi, che abbiamo, lasciamoci però con una raccomandazione, soprattutto per chi fa sport: riscaldamento, non muovetevi a freddo, questo in qualche modo, se non salva il tendine, insomma lo aiuta. E prima di salutarci, un pizzico in meno, tanta salute in più, in collaborazione col Mario Negri di Bergamo. Io vi saluto e vi aspetto domani. In un mortaio pestate 4 cucchiaini di semi di sesamo leggermente tostati con 2 cucchiaini di erbe aromatiche essiccate a piacere: aneto, timo, dragoncello, maggiorana, erba cipollina, origano. Conservate in un barattolo di vetro. Utilizzate per insaporire verdure, cotte e crude, pasta e riso, aggiungendo olio extravergine di oliva e pepe macinato fresco se gradito. Essere e benessere.